Benvenuti. Oggi facciamo un approfondimento su un'iniziativa italiana. Si chiama BESSEB. Esatto, BESSEB, che sta per Bollette Eco-Solidali. Un nome interessante, palindromo tra l'altro. Vero. Abbiamo dato un'occhiata a diverse fonti, sai, siti web, documenti, anche video, per capire meglio. L'idea sembra essere quella di aiutare le famiglie. Sì, con risparmio, sostenibilità e anche un aspetto di solidarietà. La nostra missione oggi è proprio questa, capire come funziona davvero e che impatto può avere. Allora, partiamo dalle basi. Cos'è esattamente BESSEB? Chi c'è dietro? Dunque, le fonti lo presentano come un modello di utilità. È legato a un'entità chiamata Infinity Group. Ok. L'idea di fondo è creare una community nel mercato dell'energia, non solo consumatori, ma persone attive. E l'obiettivo? Mi sembrava ambizioso leggendo. Sì, lo è. Parlano di aiutare a risparmiare sulle spese fisse, luce e gas ovviamente, ma non solo. Ah, sì. Tipo? Menzionano anche carburante, la spesa al supermercato. Addirittura l'obiettivo finale dichiarato sarebbe azzerare il costo dell'energia. Azzerare? Sembra tanto. Beh, tramite i benefici che il sistema stesso genera, così dicono le fonti. È sicuramente un traguardo alto. Certo. Ma come ci si prova ad arrivare? Qual è, diciamo, il meccanismo principale? Sembra basarsi su due pilastri principali. Da una parte c'è l'idea del gruppo d'acquisto. Cioè, tanti utenti insieme hanno più potere contrattuale per le tariffe. Esatto, negoziare tariffe migliori con i fornitori partner. Ma l'altro aspetto, forse quello più distintivo, è il sistema di cashback. Cashback? Sulle bollette? Spiegaci un po' meglio. Allora, per ogni utenza attiva nella community, luce o gas che sia, quando paghi la bolletta si genera un cashback. Ok. Le fonti parlano di 9 euro lordi al mese. Poi, tolte tasse e costi, ne restano circa 6,31 netti che vengono, diciamo, rimessi in circolo. E di questi 6 euro e rotti, una parte importante sui 3,37 euro. Che fine fa? Ecco, questo è interessante. Quei 3,37 euro possono prendere strade diverse. Cioè? Dipende dall'utente. Sì. Se l'utente è attivo, se segnala il progetto ad altri diventando segnalatore o collaboratore, una parte può tornare direttamente a lui. Ah, ok. Oppure può scegliere di destinarli a sostenere un'associazione non profit o ancora finiscono in un fondo di solidarietà interno. Quindi non è uno sconto diretto sulla bolletta per tutti, ma più un flusso che alimenta la community o cause esterne. Esattamente. Sembra più un incentivo alla partecipazione e alla solidarietà, piuttosto che un taglio netto immediato per tutti. E, importante, questo credito si accumula. Si accumula. Ma poi resta lì come un numero su uno schermo o si può usare davvero? No, no. Le fonti sottolineano che diventa concreto. Si accumula in un portafoglio digitale. Accessibile via app, immagino. Sì, una web app. E da lì lo puoi usare per ridurre altre spese quotidiane. Fanno esempi chiari. Tipo? Tipo comprare buoni carburante, Quotto ad esempio. Oppure buoni spesa, Conad o anche Amazon. E li compri con uno sconto. Esatto, usando il credito accumulato. Le fonti parlano di sconti reali fino al 20%. Quindi paghi il buono meno del suo valore. Capito. Quindi il cashback diventa moneta spendibile per altre cose. Interessante. Ma dicevamo che non c'è solo l'energia. C'è anche dell'altro, giusto? Sì, c'è Best Shop. Una specie di negozio online. Cosa si trova lì? Beh, due tipi di cose, principalmente. Beni di prima necessità, cibo, prodotti per la casa. Ok. Però selezionati con un occhio di riguardo. Non solo prezzo, ma anche sostenibilità. Filiera corta, bio, packaging eco. Almeno questa è l'intenzione dichiarata. E l'altra categoria? Servizi. Tipo consulenze per risparmiare in casa. O magari interventi per migliorare l'efficienza energetica. L'idea è una spesa più intelligente. Quindi un approccio che va oltre il semplice comprare al prezzo più basso. C'è una forte componente etica, mi sembra. Decisamente. Le fonti insistono molto su questo. Si definiscono diversi dal network marketing classico. In che senso? Pongono l'accento sulla persona, sulla consapevolezza. Dicono di voler evitare manipolazioni. E c'è questo fondo di solidarietà. Quello che dicevi prima, alimentato da una parte del cashback. proprio lui. 45 centesimi da ogni cashback generato vanno lì e servono specificamente per aiutare famiglie della community che faticano a pagare le bollette. Un aspetto sociale concreto, quindi. E il supporto alle non profit, come si lega? È una delle opzioni per quei 3,37 euro di cui parlavamo. L'utente può scegliere di dare quella cifra mensile, legata alla sua utenza, a un'associazione convenzionata. Rafforza l'idea di un'economia che prova a essere anche solidale. Esatto. Nelle fonti si accennava anche a ruoli diversi dentro la community. Cliente, segnalatore, collaboratore. E una regola del minimo, RDM. Ci dice qualcosa sulla struttura? Beh, suggerisce che c'è un sistema organizzato per far crescere la rete. Il cliente è lì per il risparmio. Ok. Il segnalatore guadagna qualcosa portando dentro altri. Il collaboratore sembra avere un ruolo più attivo nel costruire la rete. Che questa regola del minimo? Viene descritta come un metodo per i collaboratori per ottenere guadagni extra, legati proprio a come sviluppano la loro parte di rete. Collega il beneficio del singolo alla crescita di tutto il progetto, insomma. Ok, chiaro. Allora, proviamo a riassumere. Cosa emerge da tutto questo su Besseb? Ma direi che si propone come un ecosistema, che mette insieme più pezzi. Il risparmio sull'energia grazie al gruppo. Sì. Il cashback che diventa moneta per altre spese. La piattaforma shop per acquisti più consapevoli. E la parte sociale? E la parte sociale, molto presente. Il fondo interno e il supporto alle non profit. È tutto integrato. E perché dovremmo considerarlo rilevante oggi? Qual è il punto, secondo le fonti? Le bollette, certo, ma anche la ricerca di modi di consumare più sostenibili. E forse anche un bisogno di community, di fare le cose insieme. Sì, anche quello. È un tentativo di cambiare un po' le regole del gioco tra chi consuma, chi vende e la comunità stessa. Bene, e per concludere lasciamo uno spunto su cui riflettere. Iniziative come questa, Besseb, che mescolano acquisto collettivo, vantaggi economici diretti e uno scopo sociale, possono davvero diventare un'alternativa stabile, scalabile ai mercati tradizionali, soprattutto per cose essenziali come l'energia. O sono destinate a rimanere esperienze più di nicchia? Cosa ne pensi? Bella domanda. È difficile dirlo ora, no? Dipende da tanti fattori. Sicuramente è un modello interessante da osservare.